Pochi Convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Attenzione a questo inserimento di Ramsey, ben lanciato da Giroud. Ramsey in area di rigore, il cross arretrato, il tiro rete! E l'Arsenal è già in vantaggio. Ozil non ha sbagliato. Di Ozil, un bel tempo a Hiller, Ozil in area di rigore, Ozil, palla dentro e c'è il raddoppio dell'Arsenal. Giroud 2-0. Come dicevo ieri, si fa presto a dire Champions, poi prendi due schiaffi a Londra da quella che è oggi comunque la migliore squadra inglese, cioè l'Arsenal, e la cosa rende un vespaio questo girone. Appena tornato da Londra, fresco. Come una rosa, buongiorno. Una rosa tanto, sì, come una rosa. Ma c'è il fuso lì, la partita è alle 7:15, sì, ora locale, quindi si va a dormire un po' prima. Sì. Non te la tira. 800 24 00 24 per i vostri commenti, ovviamente, insieme fino alle 15:20. Franco Pietrini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Dunque, il Napoli che prende la prima pettinata di questo inizio di stagione, poi il Milan che si salva di rigorino ad Amsterdam, ma devo dire che una sconfitta del Milan ieri sera sarebbe stata terribilmente ingiusta. C'è stato appunto il rigore di Balotelli, molto, molto contestato dai lancieri. C'è un lanciere? Aspetta, c'è la telecronaca del rigore di Balotelli. Ah, sentiamo, vai. Se parte. Parte. Oggi è il giorno così. Se parte, non parte. Parte, domani. Non è pulito. A me non è piaciuto, a te. No, no, sei... Siamo vicini. No. 307 netti, oh, deve stare Dio. Al di sotto. No! No, non ci credo. Peggio che a Londra. Sbagliato. È tuffo. Questa era Tania Cagnotti. Era molto sottile. Sì. Però insomma, sì, il Milan pareggia una partita da 0-0. Diciamo, meglio l'Ajax del Milan. Meglio l'Ajax del Milan nel primo tempo. Sì. Meglio il Milan dell'Ajax nel secondo. Nel secondo. Dai, pareggio. Poi questa difesa del Milan che insomma tu l'hai vista già, l'hai vista a Verona prendere, hai commentato quella partita. Sì, ma l'ho visto quasi sempre il Milan quest'anno, è il solito discorso, cioè si investe, mi ricorda un po' tipo i Galacticos di Florentino Perez, no? Cioè comunque della mentalità madridista, per cui cerchi sempre gli attaccanti, ma in realtà però attento alla domanda, uno come Benatia, difesa o di fase difensiva? Secondo me è anche questione di difesa, con tutto il rispetto, vabbè, non faccio nomi, però insomma, voglio dire, Zaccardo, per dirti, è uno che adesso sta tornando utile con tutti gli infortuni, è un giocatore che ha vinto anche il mondiale, ma ovviamente insomma, perché il Milan non ha preso Benatia, per esempio, no? Perché l'ha preso la Roma, però voglio dirti, mi sembra che ci sia più attenzione sì. Nella fase degli acquisti, dei colpi di teatro, che nel sistemare le cose dietro. Questo, come sappiamo, e lo dico io per diktat presidenziale, e sappiamo bene com'è, no? Per decreto. Però io credo sia, nel Milan giocano quest'anno molti giocatori che normalmente non avrebbero giocato nemmeno l'amichevole del giovedì, e l'ho detto molte volte. Uno di questi è Zaccardo, l'altro Birsa, non ce l'ho con Birsa, però è oggettivo questo. Un altro è Zapata, che è altro giocatore che secondo me è modesto come livello complessivo. A parte tutto, sì, è evidente, insomma, è evidente che il Milan di qualche anno fa, quello che lottava per vincere le Champions, e le vinceva anche in qualche caso, aveva una struttura, un'intelaiatura di squadra, Nesta, Stam, Gattuso, Pirlo. Richiamo la tua memoria storica, anche con Ancelotti il Milan aveva, ti ricordi, ovviamente con Nesta, con altri interpreti, però problemi sulle palle. Sì, problema storico atavico. di una squadra che qualche distrazione da quel punto di vista ce l'ha sempre avuta. Detto questo, insomma, era proprio un altro Milan, un'altra qualità complessiva, e il punto secondo me della priorità degli investimenti rimane fondamentale, cioè comunque alla fine si cerca Kakà, si prende Kakà, si cerca sempre il colpo d'effetto davanti, quando poi dietro i problemi ci sono e sono rimasti sul tappeto. Insomma, un altro difensore importante serviva al Milan. Cosa dici? Dopo il traffico che tanto ti piace, sentiamo un ex difensore del Milan? Sì, che fra un po' allena. Tra un po' allena, sempre, quindi dobbiamo anche sbrigarci. Allora lo chiedo. Fai tu? Vado io. Vai. Traffico. Bello. Tutti convocati. Allora, caro Pierluigi Pardo, c'è un difensore. È pronto? Sì. Massimo Oddo, buongiorno, come va? Buongiorno a tutti. Come bene, stai? Grazie. La tua popolarità già era clamorosa, so che è cresciuta anche su Twitter dopo l'altra sera, no? La tua partecipazione a Tiki Taka ti ha portato tanti follower, soprattutto donne, mi risulta, vero? No. Come no? È cresciuta in generale. È cresciuta in generale. Cresciuta in generale perché è tutto merito di... Vedrai dopo il programma di oggi, Massimo. Vedrai. È clamoroso. Dopo oggi non c'è un botto. Stavamo dicendo che il Milan i giochi, cioè i gol su palla inattiva li prendeva anche quando c'eri tu in difesa. Mi sembra un vizio atavico. Ma come insegni tu agli allievi del Genoa a difendersi su quelle dannate palle ferme? Beh, non hai, nel settore giovanile ovviamente non hai alternative, devono imparare a marcare. Quindi anche se tu hai un'idea diversa da quella della marcatura uomo sui calci piazzali, come può essere magari ovviamente la zona, ovviamente qui non lo puoi fare perché sono ragazzini, se non imparano qui a marcare dopo non impareranno più, e quindi fai di tutto per cercare di marcare. Io credo che il segreto più grande sia quello di trasmettere l'idea che chi marca non deve prendere la palla, ma non deve farla prendere l'avversario. Questo, ecco, è il primo concetto. La filosofia di partenza. Senti, ma a livello di costruzione, tu hai giocato in un Milan un po' diverso da questo, non trovi che manchi un po' di attenzione anche in fase di mercato alla difesa e alla fase difensiva? Cioè, comunque il Milan perché non cerca difensori? Lì potrebbe, dovrebbe migliorare o no? Ma io ritengo che sia un momento generale del calcio in cui effettivamente difensori veramente forti ce ne sono pochi. Chi li ha se li tiene, e chi li vuole vendere chiede cifre astronomiche che tra l'altro magari a volte non sono neanche adeguate al valore del stesso del giocatore, soprattutto oggigiorno. Se noi andiamo a vedere, io facevo un ragionamento qualche giorno fa e tornavo di qualche anno indietro quando c'erano le famose sette sorelle, no? Sì. E andiamo a fare due conti. Il Parma dietro aveva Thuram, Cannavaro, la Juve Montero, cioè qualsiasi, cioè il Milan non ne parliamo, la Lazio aveva Mihajlovic, Couto, cioè voglio dire, qualche anno fa i difensori di livello erano veramente veramente di livello. Sì. Oggigiorno sicuramente quello che c'è in campo anche internazionale, non solo in Italia, non è più quello che c'era una volta sicuramente. Senti, ma toglimi una curiosità, ieri Dansville chi se l'è perso nel Milan? Non lo so, non so chi lo marcasse, sicuramente ci sarà stata una marcatura uomo di qualcuno, però ovviamente se non abbiamo foglio alla mano dell'allenatore che decreta chi dovesse marcare un giocatore o l'altro. Perché lì funziona proprio, cioè il foglio che l'allenatore consegna, cioè le palle inattive, raccontiamolo perché magari è un po' meno scontato, le palle inattive. Chi marca, per chi ci sono due marcature diverse, no? A zona uomo, solitamente quando si marca uomo ci sono i 4/5 marcatori addetti proprio alla marcatura, se vengono a saltare in 4 sono 4, se no sono 5, e gli altri solitamente si posizionano a zona, uno sul primo palo, uno in mezzo e chi vuole anche uno sul secondo, a seconda di come si schiera l'altra squadra, però funziona così, insomma, solitamente sono i 4 difensori che marcano e poi più un centrocampista magari più bravo alla fase di marcatura, e a ognuno di loro viene assegnato un nome. Nel settore giovanile è molto più difficile perché ovvio che è più facile perché insomma tu quando vai a giocare con qualsiasi squadra europea comunque conosci gli avversari, conosci gli altri giocatori, le caratteristiche, è ovvio che tu prendi in eccesso e gli dai uno abbastanza alto perché lui è alto, ha fisico e tutto, qua bisogna dire prendete i 4 che vengono, prendi quello biondo, prendi il pelato. Senti, ma domanda 300 pistole o 500 o 1000, quante sono? Balotelli diventa un fenomeno o no? Da qui a 3 anni? Balotelli dipende solo da lui. Io credo sì o no? Non lo so, se cambia atteggiamento sì. Io dico la verità, io penso che i più grandi campioni hanno sempre un lato umano oltre la media. E se sentite parlare di, io ho giocato a Napoli, se sentite parlare di Napoli, di Maradona, tutti parlano strabene sotto il punto di vista, il profilo umano, bravissimo, al di là poi delle cose che faceva, bravissimo. Ma sai Max, io mi ricordo una volta però i grandi campioni si fanno sempre, ma sempre voler bene. Ma tu hai mai sentito qualcuno parlare male, qualche compagno di Maradona parlare male di lui? Ma io me lo ricordo con Zola, ragazzino, Maradona, rotolarsi nel fango dopo un allenamento e dopo aver provato le punizioni, cioè qualcosa di pazzesco. Sì, no, ma Maradona, come bene o male un po' tutti i grandissimi campioni, in questo momento Balotelli, che è un grandissimo giocatore, ha un atteggiamento che per carità fa parte del suo carattere, però non si fa il voler bene da nessuno, a meno dei tifosi del Milan ovviamente, però su ogni campo in cui va, sia nazionale che internazionale, è tra virgolette odiato. Perché? Perché probabilmente a volte sbaglia gli atteggiamenti. Ecco, ad esempio lo zittire ieri sera dopo il gol sono, secondo me, atteggiamenti che non sono consoni ad un campione. Ti faccio scusa, su questo un'altra domanda, poi ti lasciamo veramente andare. Il Milan di qualche anno fa, con qualche senatore in più, questi atteggiamenti qui magari li avrebbe controllati meglio? Cioè, la leggenda metropolitana dice che nel Milan ci fossero i senatori che portavano delle regole ferre al limite proprio quasi con lo stalinismo, senza esagerare, magari, qualcuno magari ci avrebbe sicuramente provato, avrebbe provato a parlarci, ma questo per il suo bene, non per qualsiasi, cioè alla fine lui va in campo, segna tanto, è un grandissimo giocatore, per carità, se si comporta così sono problematiche sue, esclusivamente sue, però sicuramente in una squadra dove ci sono tanti senatori che hanno esperienza, magari una parola di un altro campione può aiutare dei comportamenti di ragazzi che poi alla fine sono giovani. Lo lasciamo andare a lavorare, Oddo. Assolutamente, a lavorare, Oddo, vai a lavorare, bocca al lupo, ecco. Ciao, chi giocate la prossima? Saluto a tutti. La prossima contro? La prossima giochiamo con la Provercelli. A Vercelli, veniamo io e Pardo. A Vercelli, vi aspetto. Tutti a Vercelli, andiamo tutti a Vercelli. Tra l'altro sono le due squadre, i derby delle vecchie squadre d'Italia. A Provercelli, Genova, fantastico. Le prime due squadre italiane fondate. Insomma, bene, qui. gemellatevi e fate l'amore con... E non la guerra. Non la guerra, esatto. Va bene. Ciao, grazie. Saluto a tutti. Manuelson per Montolivo, possibilità per il Milan. Montolivo, il suo cross, Balotelli ancora trattenuto in area di rigore, calcio di rigore indica l'arbitro. Mario Balotelli per il pareggio del Milan. Sì, poi dicono segnare rigore è facile, voglio vedere te al 91esimo una partita di Champions League sotto 1-0 tirare quel rigore lì, voglio vedere. Io non voglio vederlo perché ho paura solo a pensarci, anche se ho giocato la partita del cuore, è stata una delle libidini più grandi della mia vita, è stato un momento incredibile, trasformazione della paura. Ma no, stavo in porta, ero vestito, sembravo il Gabibbo con la maglia arancione, sembravo Jimmy Cinque Pance, però insomma alla fine non ho preso gol. No, che poi a me insomma ti fanno la distinzione, gol 10 però con rigore, con tre rigori, ma secondo me i rigori sono gol, bisogna essere bravi a tirarli. Insomma. I rigori segnati sono comunque un segno di freddezza, di personalità, e questo è indiscutibile. È di grande tecnica perché è un gesto tecnico estremamente difficile sotto pressione. Assolutamente, no, ma su questo non ci sono dubbi, ma io credo che il discorso di Massimo sia giustissimo, cioè e più parli con i calciatori più ti rendi conto che veramente Mario ha davanti a sé questa sfida fondamentale con se stesso, però insomma deve sicuramente cambiare alcuni atteggiamenti. Sicuro, però poi ieri sera se non si inventa qualcosa lui nel Milan, lascia stare il rigore, però ha fatto quel tiro al giro che è stata una meraviglia. Però assoluta. Io pretendo da uno come Balotelli che faccia 30, 35, 38 partite in una stagione da giocatore normale, da leader tecnico della squadra, l'abbiamo già detto ieri, è la cosa fondamentale per lui, per il Milan, per il calcio italiano. Se non le fa rimarrà sempre un giocatore straordinario ma incompiuto. Siccome insomma è vero che è giovanissimo, però comunque un po' di tempo è già passato, adesso giovanissimo per noi perché a 23 anni un giocatore deve essere fatto e finito, almeno appunto, per gli standard appunto. Non dico europei ma mondiali e di qualunque sport. 23 non sono pochissimi. Esatto. Luca, provincia di Pavia, primo convocato. Gianfranco da Padova, secondo convocato. 800 24 00 24 per tutti gli altri convocati. Luca. Sì, buongiorno, grazie di avermi convocato. Sei parente di Genta? Sei parente di Genta, provincia di Pavia? Sì. Sono dell'Oltrepò Pavese. Siamo tutti parenti. Quindi roba di vini, no? Sì, roba, soprattutto roba di vini. Benissimo. Senta, volevo un vostro parere. è un sogno, io sono un tifoso juventino, è un sogno che probabilmente tanti juventini come me hanno dentro il cuore. Io vorrei vedere Balotelli alla Juve con Conte, che sicuramente lo renderebbe più tranquillo, e anche tutto il gruppo lo renderebbe più tranquillo. Sì, questo è il segreto di tutte le grandi squadre, Luca, cioè le grandi squadre sono quelle capaci di metabolizzare se vogliamo anche la follia del singolo. Non so, Balotelli alla Juve secondo me non lo vedremo, almeno in tempi brevi. Tempi brevi non credo proprio. Con Conte neanche. Non lo vedremo, lo vedremo. No. Non credo neanche io. Magari, magari fra 6 anni, ci sono giocatori che fanno il giro, no, delle grandi squadre. In questo momento mi sembra molto difficile. Sì. Io tra l'altro lo reputo uno dei migliori attaccanti, non d'Italia, ma al mondo. Anch'io. E poi è un italiano e vorrei vederlo un po' con la testa a posto. Secondo me è il posto giusto alla Juventus. Dopo aver letto quello che Conte organizza per i suoi giocatori, penso che quello sia l'ambiente giusto. Ma secondo me l'ambiente giusto può essere anche quello della nazionale, maglia che forse Balotelli sente sua più di ogni altra, compresa quella del Milan. Quindi anche l'ambiente della nazionale può essere quello giusto. Poi sappiamo bene come sia molto difficile controllare fino in fondo però, certi giocatori. Però in nazionale c'è un rapporto quasi da padre di Prandelli. Sì. Se avesse Conte, diciamo, come allenatore, forse il rapporto sarebbe un pochino più antagonistico, un pochino più virile e duro. No, è una suggestione, io la capisco, è una suggestione sicuramente forte, però insomma, per ora Balotelli ha trovato vari allenatori che hanno provato a prenderlo con le buone, allenatori invece più distanti come Allegri, che ultimamente insomma ha preso un po' le distanze da lui. La risposta è sempre comunque del giocatore, un po' il discorso di Cassano, no? Capello è stato sicuramente il più bravo all'inizio della sua carriera ad alternare bastone e carota per tirar fuori il meglio di questo giocatore, però poi la follia delle volte torna. Anche con Mancini era suo padre calcistico, mi sembra che i rapporti non siano stati esattamente idilliaci e meravigliosi. Dunque, dobbiamo fermarci per la borsa, giusto? Sì, sì, giusto. Gianfranco da Padova, un attimo di pazienza, poi torniamo. Tutti convocati. Dunque, Pierluigi Pardo qui con me, Gianfranco da Padova in linea. Gianfranco, buongiorno. Sì, buongiorno. Io chiamavo, sono milanista da 35 anni, diciamo ancora qualche speranza in Balotelli, anche perché è l'unico cui possiamo aggrapparci, diciamo, ancora in questo momento. Ma quello che mi fa essere pessimista è un lato del suo comportamento che non ho sentito sottolineare. Se io posso capire, non accettare, ma capire certi suoi atteggiamenti nei confronti dell'arbitro, degli avversari, ma avete notato come reagisce quando segna un gol? Cioè, non è capace di gioire, di essere sereno un attimo, nemmeno in quei momenti, cioè, sembra veramente in lotta perenne con tutti e con tutti. Sì, incazzato col mondo, sì, ma è il suo modo probabilmente di vivere anche la gioia, no? Io penso adesso qui facciamo tutti i piccoli Freud, i piccoli psicanalisti, bravo, e se ne diventiamo tutti ridicoli, io per primo, però io penso che lui certe volte abbia bisogno del nemico, dell'avversario. Penso al famoso tweet che ha fatto arrabbiare anch'io, i veronesi, no? Che era un tweet chiaramente sbagliato, mal consigliato, che non aveva senso, insomma, però delle volte mi sembra veramente che lui abbia bisogno del nemico. Ed è un atteggiamento, e voglio pensare che sia un atteggiamento che agonisticamente gli serve per riuscire a tirare fuori il meglio di se stesso. Non so se è sempre Ibra così. Non è diverso, no? Ibra ha bisogno di litigare con i compagni, poi è più sgamato e più furbo, d'altra parte la provenienza è quella, e quindi riesce a canalizzare questa sua esigenza di confronto anche dialettico in un'altra maniera. Balotelli evidentemente ne ha fatto. Sì, e poi Ibra, insomma, Balotelli ha fatto cose grandiose fino a questo momento, però insomma il paragone Ibra stiamo parlando di una storia di successo che dura da 10 anni, però non ha vinto la Champions sicuramente, ma non penso di poter dire che non l'ha vinta solo per colpa sua. Si è trovato in delle circostanze per cui l'unico anno in cui l'avrebbe potuto vincere se n'è andato, però insomma, secondo me è un giocatore che a livello di campionato è uno che vince sempre lo scudetto, insomma sarà un caso, no. Balotelli mi sembra che possa diventare Ibra, ma se tutto va bene per tanti anni, quindi gli facciamo un in bocca al lupo da questo punto di vista, però insomma nel percorso di crescita mi sembra che sia ovviamente più giovane e molto più indietro. Allora, ascoltatemi bene ragazzi, questa qui è la famosa Tate Gallery, qui ci sono pittori pre-Raffaelletti, capite cosa sono, no? Poi ci sono pittori impressionisti, poi post-impressionisti, insomma qua dentro sono conservati i migliori pittori inglesi di questo secolo. E anche... che palle! Giovane, non la finiamo, eh? Stai concentrato, stai. plombo, sei peggio di Freddy. Stai a sentire, quando io prendo un impegno lo voglio portare avanti fino in fondo. Ma non fare mica sul serio, dai, cerchiamo una sala giochi. E magari pure una pizzeria. Panino, lo dico a tutti, eh? Questa non è una gita di piacere, questa è una gita culturale. Parda, è presente la contaminazione, no? Sì, sì, sì, mi piace molto anche la contaminazione. Allora, noi rubiamo anche gli ospiti alle altre trasmissioni. Certo, chiaro. Chiaro. Ma poi questo è un fuori classe, eh? Questo è fuori classe. Ha fatto un tweet 5 giorni fa che non è radiofonico perché è volgare, ma è assolutamente... È volgare? Non si può. Beh, vabbè, è una roba romana. No, non la può dire, non la può dire. Non la può dire, è politicamente scorretto. Però è un modo di dire romano che, vabbè. Buongiorno. Boris Sollazzo. Buongiorno, ragazzi. Come va? Come va? È la prima sconfitta, ci stava tutta, insomma, sarebbe stato più bello scendere in campo a Londra, però pazienza, insomma, sarà per le di ritorno. Che film era quello che abbiamo mandato? Oddio, non si sentiva bene, quindi non ve lo so dire, perché ho sentito le vostre voci, ma non la traccia. Pietra miliare della cinematografia mondiale. Io no speak English, Paolo Villaggio. Ma il motivo era questo, ieri Benitez ha fatto il maestro e ha accompagnato i ragazzi, invece dell'allenamento di rifinitura li ha accompagnati in gita culturale al British Museum. Posso dire, io non ci credo. Non ci credo. No, ma non ci credo. Non è possibile, dai. Prima della partita non è possibile. È andata così? È possibile. Boris? Ma io so da, insomma, accompagnatori privilegiati che invece così è stato e credo che, insomma, sia anche la spiegazione alla partita di ieri, perché chiaramente era la mummia di Ramsete quella al posto di Amsic all'Emirates. Quindi credo che semplicemente ci sia stato uno scambio di persona, anzi quando si accorgeranno dell'errore tecnico ripeteranno la partita. Perché... A monte. Esatto, non era tesserato Ramsete 17. No, Ramsete poi fra l'altro ruberebbe il posto d'extracomunitario, quindi sarebbe fuori da... Sì. No, però a parte tutto, mi sembra... Io continuo a non crederci, scusate, voglio bene Boris, però insomma mi sembra veramente un errore, quindi giù le mani dal soldato Rafa. Anche se la partita di ieri è stata una roba al confine proprio con Squallone. Chiedo a tutte e due quanto ha pesato realmente l'assenza di Higuain sul piano emotivo e tecnico, perché credo che abbia avuto anche un peso emotivo sul Napoli senza il suo totem, che non è assolutamente una mummia, nonostante a Zagara, ma è un totem vero. Ma secondo me, onestamente, solo forse a livello emotivo, perché adesso con tutto che Pandev si è nascosto meglio di Fantomas, francamente credo che ai Higuain non sarebbero comunque arrivate palle giocabili come non sono arrivate a Pandev, era tutta la squadra che girava, quindi sarebbe disonesto dire che l'assenza di Higuain è stata fondamentale, perché appunto Higuain non avrebbe potuto giocare con la squadra di ieri. Forse a livello emotivo ha dato ancora più incertezza, e quindi si è visto questo Napoli che sostanzialmente ha giocato peggio di quando giocava con Mazzarri, cioè non riusciva ad uscire dalla sua tre quarti, neanche dalla metà campo. Questo volevo dire, perché abbiamo fatto giustamente tanti elogi al Napoli europeo di Benitez, che gioca a pallone in maniera molto più a testa alta in generale rispetto a quello di Mazzarri, però volevo capire da Boris se a un certo punto della partita di ieri ti è capitato di rimpiangere l'intensità di Mazzarri, che comunque insomma magari non era sempre il calcio iperoffensivo, magari preferiva ripartire delle volte in contropiede, però insomma io mi ricordo Manchester City Napoli, cioè comunque c'era una garra diversa, o no? Ma guarda, io però ricordo una cosa, quel Manchester City Napoli iniziò con 25 minuti in cui il Napoli, come ha fatto con l'Arsenal, non uscì dalla propria tre quarti, poi arrivò una traversa, se non ricordo male, di Lavezzi e in qualche modo cambiò l'inerzia della partita. Ieri in verità il Napoli non ha fatto intensità, ma ha fatto esattamente il gioco difensivo che faceva Mazzarri, aspettando troppo indietro i giocatori. Detto questo, io Walter l'ho amato e continuo ad amarlo, non lo rimpiango, perché mi piace più questo Napoli, non ovviamente quello di ieri, ma quello di ieri realmente secondo me non è sceso in campo. Secondo me Benitez ha finalmente capito che l'unica cosa che ha sbagliato dall'inizio del campionato è la coppia di centrali difensivi e in particolare Britos, e poi abbiamo capito che non bisogna far firmare i rinnovi contrattuali ai giocatori prima delle partite importanti. questo forse è vero. È un rinnovo, adesso non voglio fare i conti in tasca, è un rinnovo a cifre importantissime, cioè, grandissimo rispetto per Zuniga, ma insomma, si parla di 3 milioni l'anno, cioè 5 anni che avevano storia 35, tanta roba. Insomma. Senti, ci vuoi consigliare dei film? Ho letto ieri l'intervista a Papa Francesco con dei film. Vuoi consigliare dei film sia a noi che al Papa? Dei film in questo momento io consiglierei Anni Felici, che spero che siano quelli che aspettano il Napoli, di sicuro sono quelli che racconta Daniele Lucchetti, tra l'altro secondo me con un senso molto napoletano della vita, perché sono anni che lui chiama felici, ma che sono anni molto tormentati, un po' come quelli del Napoli di De Laurentiis e prima, insomma siamo arrivati a questo Napoli che si gioca il campionato e che fa buona figura in Champions League, tranne ieri, ma insomma viene da anni molto tormentati. Ti è piaciuto Rush? Rush è un capolavoro, Rush è quello che il cinema sportivo secondo me aspettava da tantissimo tempo e che in particolare il cinema che racconta la Formula 1, Ron Howard secondo me continua a raccontare i fallimenti di successo in maniera straordinaria. Ha raccontato un campione del mondo che perde il campionato facendolo apparire un trionfatore, esattamente come fece con Apollo 13 raccontando una missione spaziale che era fallita. Lui ha questa capacità di rendere il loser vincente, che è poesia pura e che è l'essenza del calcio e l'essenza del cinema. Senti, invece Febbre a 90 tornando all'Arsenal? Beh, Febbre a 90 tra l'altro era ieri su Rai 5, quindi c'è anche qualche c'era il derby ieri programmer sera. Qualche simpatico programmer che ci ha voluto prendere un po' in giro, ma dopo c'era il ragazzo della curva B, quello con Nino D'Angelo, che assolutamente siamo sullo stesso livello di qualità, insomma. Dire che effettivamente adesso faccio un po' Ronzo Canà nella partita con Picchio De Sisti, effettivamente Febbre a 90 sta al ragazzo della curva B come l'Arsenal di ieri sta al Napoli di ieri. Il paragone però abbiamo capito perfettamente. Boris, grazie. Grazie a voi. See you later, Take care, mate. Thanks, Boris Sollazzo. Che vi siete persi, ha scritto un libro Boris Sollazzo, poi te lo presto. Che vi siete persi è meraviglioso, perché è la citazione, non so, Boris è andato via, ma credo che sia la famosa scritta sul cimitero dopo lo scudetto del Napoli morti. Beh, insomma, cosa geniale, assolutamente geniale. 800240024, subito dopo il traffico abbiamo degli ascoltatori già in linea. Madonna, per essere il coronel. Tutti convocati. Dunque, caro Pardo, adesso parliamo con gli ascoltatori. 800240024. Ci sono, lo dico, io vedo i messaggi lontani, c'erano 4-5 che ci hanno scritto che parliamo troppo di Balotelli. Te lo dico. Se volete parliamo di Osvaldo che... Dunque, è diventato di nuovo papà. Però quarto figlio, possiamo dire veramente. C'è una sua ex che... Sì, che dice che sta sovrappopolando il pianeta. Sta sovrappopolando il pianeta. Vabbè, capito, in anni di crescita zero, di natalità zero, vogliamo... È un merito. Battiamo le mani a Osvaldo che... Ma come no, insomma, Ma come no. Massimo Brindisi, buongiorno. Buongiorno. E te io chiamo per fare una critica, se mi consentite. Certo, devi. Certo. A gente, vero? Non a me. A gente? No, a me. Sì, no, sto scherzando, dai, vai. Niente, io dico, ma vi riesce tanto difficile dire, cioè togliamoci la maglia di italiani, di patrioti, diciamo una volta per tutte, ieri c'è stato un giocatore che ha ingannato un arbitro, chi è? Che ci è cascato, gli ha dato il rigore, segnato il rigore che non c'era, ha zittito il pubblico, e prima sentivo soltanto degli elogi, cioè ieri non è successo niente ad Amsterdam, cioè vorrei sapere solo questo. Non è successo niente in che... Allora, no, ma io continuo a domandarvi perché vi sta così sui coglioni Mario Balotelli. E una risposta io ce l'ho, perché ha troppi difetti. È giovane, è ricco, fa quello che gli pare, è strafottente, soprattutto gioca bene a pallone. È italiano ed è nero, e questo per la gente è insopportabile. Ma non lo so, se è così. Io sono convinto. Adesso onestamente, non è che se giochi bene a pallone, sei italiano, sei nero, devi forza zittire il pubblico avversario tutte le volte che fai un gol. Ha sbagliato nell'atteggiamento, poi ha esultato in quella maniera. Ma ovviamente, secondo me Balotelli, come tutti i giocatori di personalità un po' esuberante, è molto amato da alcuni e molto odiato, non voglio dire odiato, ma insomma, avversato da tante altre persone. È una delle cose più normali normali del mondo, sì, insomma. Però quante volte hai visto un giocatore italiano che è protagonista di un episodio come quello di ieri, poi il rigore non era una cosa, non era un furto con scasso, secondo me. L'arbitro ha visto la maglietta che si allungava, e l'ho visto anch'io in televisione, ha fischiato un rigore che probabilmente non c'era, ma ho visto cose più scandalose. Probabilmente ce n'era uno prima, l'arbitro non l'ha fischiato, ho visto cose più scandalose anche in questo caso. Balotelli è andato lì, l'ha tirato, ha fatto gol. Cioè, quando ti capita di vedere un giocatore italiano protagonista di un episodio di questo tipo, che tutto sommato è normale nel calcio, e poi arriva uno che ti dice: ma levatevi la maglia di italiani, ma quando mai avete visto una cosa così? No, però insomma, io penso, io la vedo in maniera più laica, io penso semplicemente che Balotelli è finito sulla copertina del Time perché è un personaggio nel bene e nel male, per cui c'è chi lo ama molto e c'è chi invece gli sta infinitamente sulle palle, si può dire. Sono tanti, ma è una cosa normale. E fra l'altro, come ti dicevo prima, probabilmente a lui questo tipo di discorso non dà neanche fastidio, nel senso che in qualche modo si carica quando lui fa, torno al tweet di prima, sì, quando lui il giorno prima di una partita come Verona-Milan, comunque all'alto rischio, ordine pubblico, eccetera eccetera, fa quel tweet istintivo e insomma provoca, come la vogliamo chiamare, quella è una provocazione. Per cui insomma, secondo me se ne cerca, ma ripeto, io ho una visione laica del calcio, cioè Balotelli sta sulle palle a molti e piace infinitamente a chi lo ama, a chi è tifoso della sua squadra, perché è un grande giocatore, perché ha degli atteggiamenti delle volte che chiaramente ti portano a stare o con lui o contro di lui, cioè non ci vedo veramente niente di male, ecco. Poi vedi che si dice, ci hanno appena scritto che ne parliamo troppo, adesso è arrivata la telefonata e ne abbiamo riparlato. Ragazzi, è un argomento che comunque interessa la gente, quindi se non ne parliamo noi... Sul rigore, che vi devo dire, io ero a Londra, l'ho visto i replay, mi sembra che il rigore sia un rigorino, proprio un rigorino, sì, che è più no che sì. Però quanti ne hai visti, Pier? No, ma c'è mai. Quanti ne hai visti? Sì, però... Vabbè, venga, ma da tifoso di squadre italiane... No, poi dobbiamo anche capire se qua dobbiamo fare la moviola di tutti gli episodi. Lasciamo stare. Alessandro Bologna, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per la convocazione. Grazie, prego. Secondo me il ragionamento su Balotelli è semplicemente perché è della squadra avversaria, sta sulle balle proprio perché è forte. Fondamentalmente, se fosse la mia squadra lo amerei come... Ma è della sua squadra perché è della nazionale, è un giocatore della nazionale, quindi è della sua squadra. Diciamo che quando viene a Bologna col Milan e così via, sì, diciamo, questo sicuramente sì, non è amato. Comunque la mia telefonata era soprattutto anche per tornare un attimo con i piedi per terra sul discorso noi semplici umili del Bologna Football Club, in cui ci troviamo dopo 6 partite in una situazione classifica non ottimale. Allora volevo sapere se uno da voi, secondo voi, con la rosa attuale Bologna ha qualche possibilità di salvarsi, perché sinceramente la vedo molto molto difficile. Secondo me e sì, secondo me sì. Anche secondo seconda me. Cosa invece avevo telefonato anche per la pallacanestro, perché stasera viene presentata a Bologna la Virtus Pallacanestro Bologna con sponsor Granarolo, sì, squadra storica, e io quest'estate, come ogni buon italiano, come dicevamo prima, ho seguito la nazionale e mi ero anche, come si dice, un po' esaltato, però questa sera vado a vedere una partita di basket di presentazione e mi trovo una squadra dove ci credo siano 8 giocatori stranieri con 2 ragazzini, un certo Imbro, che l'ho chiamato anche come capitano, e un altro ragazzo, forse sempre del giovanile. Allora, visto che quest'anno c'è un certo presidente Petrucci che dice tanto del basket italiano, Made in Italy e così via, mi facevo la domanda se con una situazione come la nazionale ha portato quest'estate tanto amore, tanto entusiasmo per il settore, queste situazioni siano un po' un controsenso. Io credo di no. Io ho una posizione estrema su questo, l'ho detto molte volte, cioè nello sport professionistico i passaporti e carte d'identità, la nazionalità conta poco, almeno questo è il mio pensiero, quindi è del tutto normale che nel 2013 ci troviamo a tifare per delle squadre di questo tipo, quindi questo vale al massimo livello possibile, dove c'è il massimo del professionismo possibile. Poi possiamo discutere sui campionati di formazione, su tutto il resto, ma è un discorso molto lungo. Sul fatto che ci siano solo stranieri, la maggior parte siano stranieri, non lo trovo una cosa insensata o fuori dai tempi. Quanto al Bologna, secondo me si può salvare perché ha un bravo allenatore, perché ha 2-3 a talento, il Bologna ha talento davanti, ha poco equilibrio, anzi gli manca un attaccante forte e un po' di compattezza in mezzo in assoluto, però insomma io credo che davanti ci sono 4 giocatori che hanno qualità, quindi insomma vedo squadre peggiori. Poi insomma è chiaro che la situazione non è sotto controllo in questo momento, ma secondo me ci sono 3-4 squadre peggiori del Bologna. L'ultima cosa che volevo dire su Balotelli e poi chiudo, è chiaro che altri caratteristici, altri tipi umani, penso, non so, a Viesanetti, penso a Maldini, penso, insomma, Del Piero, sono giocatori che anche dal punto di vista dell'avversario, essendo meno provocatori nei loro comportamenti in campo, tendono ad attirarsi meno antipatie. Ma ripeto, è una cosa laica, secondo me uno sceglie che vuole fare nella vita. Dunque torniamo, naturalmente tra pochissimo c'è il GR. Luca Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Volevo ringraziare per essere stato convocato, farvi i naturali complimenti per la trasmissione. Grazie. Grazie. Io non seguo il calcio, però la tua trasmissione mi piace più che il calcio. Grande Luca. Vorrei cambiare numeri però. Sì, i numeri. Vorrei passare al 46. So che sto sfondando una porta aperta. Sì. Però... 46 giallo, eh? 46 giallo, sì, va bene. Allora, giallo, assolutamente sì. Giallo. Ad Aragon, che dire, solo per il terzo posto, però il sorpasso è uno dei suoi. Ho capito, però... Si è passato sì, davanti, e chiuso la curva, però lo vedo combattere, e io stesso tifo quando supera Bautista, Bredl, quando arriva terzo o quarto, ma siamo tifosi, vorrei vederlo superare in quella maniera... Marquez o Lorenzo, magari l'anno prossimo, eh. Secondo papà Graziano quest'anno è una wild card Valentino. Speriamo che secondo Lorenzo, che è stato con noi la settimana scorsa, può ancora essere competitivo per il titolo mondiale. Io non posso far altro che augurarmelo. Da tifoso del 46 giallo. Ma, mi piace, no, beh, no. Mi piace lui, mi piace moltissimo. Piace. Ma non è che ha perso quel famoso secondo al giro, che a un certo punto tu cresci, gli anni passano, sei felice. Ma no, ma poi sei felice, hai vinto tanto. No, io penso che adesso, a parte tutto, queste differenze già nel calcio, no? La fame la senti. Figurati in uno sport nel quale comunque il pericolo, il rischio di morire. Insomma, non... Sono tante cose. Ci fermiamo per il GR, ma poi torniamo, Tutti convocati. Perché stiamo per parlare con un signore che ha trasformato l'argento in oro, come ho detto ieri, caro Pierluigi Pardo, perché ci sono medaglie d'argento e medaglie d'argento. Spesso la medaglia d'argento è una finale persa, in questo caso è secondo me un argento vinto. Chiamato a gran voce ieri, eh sì, dagli ascoltatori, ma quando lo chiamate? Ma quando lo chiamate? Eccolo qui. Eccolo qui. Adesso viene. Coach Berruto. Buongiorno, buon pomeriggio. Allora, io ho dato questa lettura non perché lei è qui con noi, ma l'ho data ieri, quindi al riparo da orecchie indiscrete. Cioè, secondo me questa medaglia è la medaglia d'argento della ricostruzione della pallavolo italiana. È da qui che si parte per arrivare dove non si sa, o meglio non si dice. Magari si sa o si pensa o si spera, ma non si dice. Beh, mi fa molto piacere questa lettura. Sicuramente una medaglia d'argento vinta, sicuramente una medaglia d'argento che... viene vinta da un gruppo anche che ha un bel respiro sul futuro, insomma, questo ne abbiamo anche bisogno, insomma, non solo nello sport, mi sembra siamo così attaccati a delle progettualità così a breve termine, che questo tipo di successo secondo me rappresenta un bello sguardo prospettico, insomma, una finestra aperta per un po' di tempo, perché ottenuta da un gruppo non solo estremamente rinnovato, non solo di 5 anni di media più giovane di quello che vinse la medaglia di bronzo a Londra, ma con dei giocatori, due in sestetto, che non hanno ancora fatto stabilmente titolare in Serie A1, quindi evidentemente hanno il futuro dalla loro parte e sono già stati capaci però di garantirci un meraviglioso presente. 2 sì. Su 6 è tanto, è un terzo della squadra, insomma, è come se nel calcio 33%. ci fossero 4 giocatori che arrivano dalla Serie B o cose del genere. Quindi sono molto orgoglioso di quello che è successo, anche perché è successo attraverso dei problemi, delle difficoltà da superare, delle squadre forti da incontrare, eccetera. E davvero credo che questo possa essere un bellissimo punto di partenza. È anche vero, coach, che io lo vedo sia nel basket, nella pallavolo, eccetera. Noi siamo sempre fisicamente, mediamente, molto più piccoli degli altri. No, in questo caso non sono tanto d'accordo, nel senso che è la Russia che è straordinariamente più grossa. Ok, va bene. Perché noi abbiamo in questo momento un gruppo fisicamente molto interessante, molto alto, con grandi capacità di salto in quasi tutti i suoi titolari, quindi diciamo che nella rispetto alla media siamo grossi anche noi, e che quelli là sono grossissimi. Ho capito. No, poi sai cosa c'è, Pier, che alla fine questo impegno della nazionale così importante ha distratto Mauro Berruto dal derby. Ecco, ma sei riuscito a vederlo il derby? No, guarda, ci ho anche provato, ma purtroppo non avevo né una connessione internet stabile, meglio così, né un collegamento televisivo, meglio così, perché a noi sai che si sono spente delle luci, no? Nel momento in cui stavamo effettuando una bella rimonta nel secondo set, eravamo proprio riavvicinati alla Russia. Secondo me si sono spente anche un po' di luci all'Olimpico di Torino, però ecco, ma quando si sono spente le vostre luci, che hai pensato? Che la sfiga ci vedeva benissimo, cioè meglio che non ci si vedeva. Che no, si fa in quei casi? Dice, vabbè, ho pensato che ci sono che questa era l'ennesima lezione, che ci sono delle cose che proprio non puoi controllare, cioè bisogna essere bravi anche a saperlo, nel senso che ci sono tante cose sulle quali si può fare, si può lavorare, si può migliorare, ci si può applicare. Poi nello sport rimangono delle cose che sono completamente al di fuori del tuo controllo e dipende un po' come tu le affronti. Io è vero che poi questa lì l'abbiamo perso, però abbiamo vinto quello dopo, dimostrando che comunque eravamo ancora lì a combattere per quanto era possibile, a sfruttare l'opportunità che questa squadra, che oggi è la squadra più forte al mondo, la Russia, ci avrebbe concesso. Ci siamo riusciti, non è stato sufficiente per vincere la partita, però credo che comunque questo è un bel concetto, no? E penso che per un allenatore sia importante togliere dalla testa dei giocatori il pensiero degli arbitri, il pensiero degli infortuni, della sfiga. È la cosa più difficile, secondo me, la cosa più sfidante, più difficile, perché poi è chiaro che chi gioca in una squadra nazionale, con più o meno esperienza che abbia, come nel nostro caso, comunque significa che ha dei parametri atletici, fisici, che gli permettono di essere lì, se no non ci sarebbe, insomma io non ci giocherei naturalmente in quel contesto. Allora la differenza dopo la fa veramente la tua capacità di gestire le situazioni, che, ripeto, alcune sono controllabili e dipendono da te, altre lo sono molto di meno o per niente. Ma come lo gestirebbe lei Balotelli, per esempio? Tema nuovo, ma non c'è un'ossessione, no, è tutto io penso ai miei giocatori naturalmente, perché ovviamente anche lì ho le mie cose da fare, però è ovvio che insomma occorre sempre, credo, negli sport di squadra quali noi rappresentiamo, pallavolo, pallacanestro, calcio, che ci sia questa capacità di un fuoriclasse assoluto, comunque, di riconoscersi in una squadra. Se non c'è, è comunque un problema, ecco, questo. E quindi è compito di allenatore riportare queste tematiche e farle rispettare. Insomma, tra l'altro è una persona che stimo infinitamente ed è anche un mio amico, Cesare Prandelli, lo sa fare in maniera splendida, lo ha dimostrato non solo con i risultati ma anche con tante altre cose che sono successe quando lui è alla guida nazionale di calcio. Ma non può essere un problema questo addio alla nazionale così prematuro, anticipato rispetto ai mondiali, visto che siamo italiani e non sappiamo gestire bene queste cose? Mi riferisco naturalmente a Prandelli. Da CT Io, a CT, eh? Intanto spero che sia anche ancora una, come dire, una questione da verificare, e mi auguro che possa essere affrontata in una maniera più serena, perché ribadisco, Cesare è un patrimonio del nostro sport prima e del nostro calcio dopo, quindi io faccio il tifo perché lui possa continuare in questo lavoro. E sì, potrebbe essere, però potrebbe anche essere una di quelle situazioni in cui tutti sanno prima quello che succederà e quindi lavorano come se non ci fosse più nulla il giorno dopo, no? Quindi certo. Potrei spiegarla e metterla sotto entrambi i punti di vista, sia come un problema sia come un'opportunità. Rimane il fatto che io tra l'altro allargo un po' il raggio, perché vabbè, ho la fortuna di conoscerli tutti naturalmente per il lavoro che faccio, però credo che oggi alla guida di alcune nazionali di sport di squadra del nostro paese, come Cesare di cui abbiamo parlato, come Simone Pianigiani per il basket, come Sandro Campagna per la pallanuoto, ci siano delle persone di spessore incredibile, che mi auguro che possano continuare a lavorare per tanto tempo, perché siamo molto orgogliosi di loro. e del loro lavoro. Grazie Mauro Perruto, grazie ancora. Grazie a voi. C'è un aggiornamento medico. Ugo Allevi, ufficio stampa del Milan, 7 minuti fa ha twittato che Walter Birsa soffre di una lesione muscolare all'adduttore, ripresa fra 10 giorni, salvo complicazioni. I tifosi del Milan stanotte non dormono. Beh, però insomma, sai, Birsa in questo momento è diventato un giocatore anche importante. Poi ci sono, e questo dà la misura del valore del Milan, circa 800 messaggi su Balotelli, divisi, sì, direi in maniera abbastanza equilibrata fra 400 che... Ce n'è uno che dice che Balotelli è contemporaneamente un campione e un bambino, e questa può essere una sintesi, corretto, perfetto, una sintesi interessante. Ce ne sono molti che dicono che assolutamente Balotelli ha tirato per terra la maglia, che non fa la differenza come Cristiano, bravo, Ronaldo, Messi, quanti gol ha fatto su azione altro che medie. Se danno un rigore così contro il Milan con la nazionale, buttare giù la radio, vabbè, insomma. Però ci sono anche altri che dicono, per esempio, che Balotelli è uno showman e il calcio ha bisogno di gente così. Che io è criticato su questo, eh? Siamo poveri di personaggi. Ma io ti ripeto, io sono laico. Io penso che Balotelli è certe volte un provocatore. Sì, secondo me, di Balotelli, però di personaggi è un grande giocatore. Bisogno, cioè, assolutamente, io sono amico di Cassano. Adesso dobbiamo fare. Ho fatto il libro. Insomma, è un personaggio che ha fatto un sacco di errori. Lo sapete, glielo dico anche in faccia. Ma umanamente, per me è una persona. Secondo me, i personaggi, insomma, non sono peccato, specialmente nello sport. Quindi. È lui deve fare così, per benista a tutti i costi. E sicuramente se c'è una parte della vita, no, nella quale un personaggio che la spara anche un po' grossa, che è un po' spaccone, che è un po' provocatore, lo possiamo anche accettare, perché di fondo poi non muore nessuno e ci diverte, chiaro, è lo sport. Ecco, questo secondo me, no, rispetto ad altri contesti, la politica, l'economia, ecco, magari se ci fosse Cassano a governare la BCE, non t'offendere Antonio, modo, magari sarebbe un problema. Alla fine la cassanata o la balotellata è un argomento di cui discutere, se si conserva un certo equilibrio. Il problema vero, caro Pierluigi, è che viviamo queste cose, cioè che gli italiani molto spesso vivono queste cose nella stessa identica maniera, cioè più con la pancia che con la testa. Massimo Ascoli. Io c'ho una pancia, c'ho anche una fame. Dice, Ascoli, vai. Massimo. Signori, buongiorno. Buongiorno. Io speravo di poter fare una domanda a coach Berruto, ecco, però immagino che non ci sia più. No, l'abbiamo salutato. No. Va bene, io comunque grandissimi complimenti alla nostra nazionale. Siamo trovati di fronte una squadra più forte, abbiamo perso, giocando comunque bene, con qualche imperfezione. Infatti la mia domanda voleva essere su un aspetto tecnico, ma visto che non c'è, rinuncio. Avrei chiesto al coach Berruto, che è anche un fine psicologo, se avrebbe portato la sua nazionale al museo qualche ora prima della partita. Ma è falsa sta cosa, dai, secondo me non ci credi. Ma Benitez ieri a portare che possa portarli oggi. Abbiamo chiesto al Napoli, non hanno ancora dato comunque una risposta, se vogliamo fare una battuta, speriamo allora che Wenger al ritorno li porti tutti a Pozzuoli a mangiare, esatto. Potrebbe essere un po' appesantiti, vedremo, insomma. No, io non ci credo a una cosa del genere, ma mica peraltro, perché insomma è importante, gli allenatori te lo dicono, no? È importante anche alternare delle fasi di scarico psicologico, sì, però ma non a 5 ore dalla partita. No, questo che te scarichi? Che te scarichi al museo? Dai, Antonio, sì. Bologna, abbiamo un minuto e mezzo. Pronto. Tanto complimenti a tutti. Grazie. Voi due, bravi. Pure a Piantanida, guarda che Piantanida, che l'autore è straordinario, è un mito. Piantanida, sì, vai. Niente, io volevo dire solo una cosa a proposito di Balotelli. Notavo. Parlavate del film Rush poco tempo fa, io l'ho visto ed è meraviglioso. Sì. Sono andato a vederlo con dei miei amici che sono degli acerrimi oppositori di Balotelli. Sì. Però sono usciti tutti innamorati di Hunt. Di Hunt. Sì. Secondo Balotelli, basta. Hunt e Balotelli non sono due personaggi così differenti. No, vabbè. Non so, insomma, una è storia dello sport, era anni 70, è un po' letteratura, l'altra è cronaca. Oh, io scendo in silenzio stampa su Balotelli. Ecco, io adesso domani conto quante volte pronunci quel nome, va bene? E poi se poi loro chiamano, no, però è vero, faccio? Non rispondo. Ma fai la copertina del Time. Ma di che dobbiamo discutere? E di Sports Illustrated. Sports Illustrated. In America mangiano una maglietta rossonera numero 45, mica la tua. No, la mia anche perché non c'è, la mia è XX. Ah, quella dici della partita del cuore, quella extra large che mi hanno messo, che Chiambretti mi ha detto che sembrava una portineria, sì, infatti. Allora, portiere, sì. Domani alle... due qua, eh? A due qua. Qua, là, dove non si sa, però comunque qua, ci siamo. Qua, là, sì, qua, certo. Là, dove non si sa. Pierluigi Pardo, grazie. Grazie a voi. Franco Piattanini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, ciao a tutti, a domani alle 2. Molti baci.